9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì 26 di marzo e auguri a chi di nome fa Emanuele. Questo ci propone il calendario liturgico da parte di Oscar Giannino. Questo inizio di settimana è contrassegnato da le cose che saranno lunghe del confronto di idee muscolare, il più muscolare tra tutti i temi toccati fino a questo momento dal governo Monti e naturalmente ci accingiamo a parlare di riforma del mercato del lavoro. Avete visto che la piega presa nella scorsa settimana, dopo martedì l'ultimo incontro, giovedì l'ultima delibazione del governo sul veicolo da assumere per la riforma e venerdì il Consiglio dei Ministri, è stato quello di prendere la decisione più prudente, quella di un disegno di legge, non un decreto, non una delega. Un disegno di legge significa constatazione, consapevolezza che in Parlamento sarà battaglia. I tempi non sono certi, i mercati non possono aspettarselo a breve. Vedremo tra poco quali sono i punti su cui bisogna attendersi modifiche, su cui si è aperta molto la forbice della sensazione da parte delle forze politiche, del PD soprattutto, e del sindacato di poter portare a casa rilevanti modifiche. E quello che conta è soprattutto la percezione che il governo questa volta nei sondaggi sia sotto, e quindi bisogna premere, bisogna incalzare, perché c'è una visione della società da difendere rispetto a un'altra, piuttosto che norme in particolare, o meglio ci sono norme in particolare che agli occhi del PD e di un pezzo di sindacato, ma si è visto che poi il sindacato su questo sotto la pressione della CGIL ha esteso anche le maglie di chi vuole modifiche, perché poi anche la CISL si è sfilata rispetto al sì iniziale, la UIL a dire la verità meno roboantemente ma fin dall'inizio aveva avanzato qualche distinguo anche in più, e quindi quello che conta è soprattutto questa percezione. Vedremo nel merito. Intanto, per cominciare, torniamo oggi inizio settimana a qualche flash sulla situazione europea, sullo Spiegel, sul Financial Times, tutti gli approfondimenti del caso sulle tre ipotesi di cui avete letto, forse, mi auguro di sì, sul Sole 24 Ore, primo quotidiano a parlarne in termini tecnici ieri, domenica, in un articolo di Beda Romano, sulle tre diverse ipotesi di dotazione finanziaria che derivano da come si può fare la somma del FSF, il fondo salva state e salva banche che abbiamo avuto e che avremo fino a giugno, e l'ESM, la cui vigenza è stata anticipata a luglio per effetto del fiscal compact. Ci sono tre diverse modalità per cui le garanzie possono essere fino a 750 miliardi di euro o fino a 1000 miliardi di euro, e quindi la parte da spendere vera, visto quella già spesa, da 500 a 750 miliardi. Ce n'è una sola di queste tre che somma il tutto con la somma di garanzie. Su questo c'è il dibattito aperto in Germania, perché ci informa Der Spiegel, a seconda di quale si scelga di queste strade, Angela Merkel potrebbe aver bisogno della maggioranza dei due terzi al Bundestag, quindi in quel caso avrebbe bisogno dei voti dell'SPD. Da questo punto di vista è interessante rilevare come le elezioni anticipate che ci sono state in Saarland, in Germania, abbiano visto la CDU affermarsi come primo partito, sia pure in perdita di voti, al 32,5%, di fronte ai socialdemocratici che hanno preso il 30,6%. E il Frankfurter Allgemeine ci informa di come a questo punto si attenda una grande coalizione in Saarland, perché la SPD prima del voto aveva escluso un'alleanza con Die Linke, con la sinistra, che ha preso il 16,1%. A governare prima era una coalizione di CDU, FDP, cioè i liberali, e i Verdi, che però era saltata per aria. I Verdi con l'1,2% non sono più rappresentati al Parlamento della Saarland e quindi confermano questo giudizio, se sempre più preoccupante sul fatto che loro abbiano una possibilità di battere poi l'asta federale alle elezioni nazionali del prossimo anno. E i Verdi ce l'hanno appena fatta entrare in Parlamento con un 5%. Interessante che anche in Sardegna nel partito dei Pirati ha preso un 7,4%, quindi può essere, oramai si profila la conferma che sarà un attore politico presente nel Bundestag dopo le elezioni politiche dell'anno prossimo, e questo potrebbe ulteriormente cambiare e complicare la situazione. Ricordo a tutti che ci sono altre due elezioni nel 2012 in Germania, nel Nordrhein-Westfalia e a Berlino. Anche in Spagna elezioni regionali, Andalusia non ce l'ha fatta a prendere la maggioranza il Partito Popolare di Mariano Rajoy, che è in testa di fronte a tutti gli altri, ma non formerà il governo. I socialisti continueranno a governare con un'alleanza di sinistra, cui trovate naturalmente sul Paese tutti i dettagli. E il motivo per cui gli andamenti dei bonus dei titoli pubblici spagnoli hanno sopravanzato quelli italiani è confermato un'analisi preoccupata che si trova sul Paese, perché la Spagna è costretta tra fiscal compact e 2,5% più di deficit dell'anno scorso a un aggiustamento di 5,5 punti di PIL del proprio deficit pubblico tra 2012 e 2013, più di quanto abbia fatto la Grecia. Infine Sarkozy, nel sondaggio giornale di Match di ieri, un altro colpo di rima a proprio favore, nel senso che otterrebbe, secondo questo sondaggio, il presidente uscente francese il 28,5% dei voti rispetto a François Hollande al 27%, Marine Le Pen il 16%, il candidato all'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon il 12%, Bayrou al 12%. In questo caso, nel ballottaggio del 6 maggio, però Hollande continuerebbe a vincere di fronte a Sarkozy, quindi per il momento il recupero, c'è un recuperino per il primo turno, ma non modifica le prospettive di vittoria di Hollande al secondo turno, neanche a quanto pare con la vicenda del caidista eliminato dalle forze di sicurezza e dal cacan che il presidente ha fatto intorno alle forze di sicurezza, perché i dubbi sul fatto che appartenesse in qualche maniera anche ai servizi francesi hanno fatto ripiombare verso il basso il favore che prima si era elevato improvvisamente nei confronti di Sarkozy. Allora, consentitemi un ultimo strappo alla regola, è un po' di tempo che presentiamo situazioni e casi di cittadini che vedono nello Stato non tanto la soluzione del proprio problema. Vi leggo rapidamente questa lettera prima di andare all'articolo 18 e lasciare la parola ai nostri ospiti. Caro Oscar, sono stanco di combattere contro questo Stato che oggi mi fa scrivere dall'INPS, quell'ente il cui presidente vanta un maxi stipendio, lo stesso ente che eroga mi sembra fino a 5 miliardi di euro l'anno in pensioni baby. Tra l'altro, avete visto ieri sera il report e come si sente che l'atmosfera è cambiata, i colpi di maglio che il report e la squadra della Gabanelli hanno portato sui temi degli esodati, cioè delle centinaia di migliaia di lavoratori che si sono trovate con la riforma delle pensioni scoperti rispetto al fatto che avevano perso il posto dei lavori, scoperti per avere i requisiti minimi per il pensionamento, e avete visto con quale intensità, passione, durezza, ma anche violenza in alcune parti è stato trattato il tema dell'INPS, del suo presidente, dei tanti incarichi che ha, del fatto che Mastra Pasqua abbia messo un limite agli incarichi per i dipendenti dell'INPS rispetto ad altri incarichi, naturalmente però un limite che non vale per sé. Ecco, anche questi cambi di atmosfera fanno capire che siamo in un punto delicato. Comunque la lettera continua così. Quell'ente che in 15 minuti in una stanzetta lo scorso 15 febbraio ha fatto decidere ad una signora che non si è identificata nonostante una mia precisa richiesta e quindi non so fare il nome, che il mio figlio disabile non ha più diritto da subito al trattamento di accompagnamento. Da subito, perché dalla nostra richiesta 2 anni fa, riconoscimento dell'handicap al riconoscimento dello stesso, sono trascorsi più di 8 mesi. La signora ha deciso, anche se la commissione dovrebbe essere composta da almeno 2 persone, che nonostante il nostro figlio, virgolette, emetta fonemi a volte onomatopeici, in definitiva non si riesca a entrare in relazione relazione con lui neanche minima gestuale, ha deciso comunque che lo stesso non si sa vestire, che non interagisce con i coetanei e che gli insegnanti, e tanto che gli viene affiancato un insegnante di sostegno, un assistente personale che si fa la pipì addosso nonostante abbia 6 anni e che vive in un mondo di stereotipi e motori. Insomma, ha deciso, malgrado tutto questo, che lui non ha diritto al trattamento di accompagnamento e che minacciosamente rimangono in verifica le condizioni socio-economiche che hanno portato all'erogazione dello stesso. Il rischio è che ci chiedano pure indietro gli arretrati. Il nostro bambino frequentava, ormai il passato obbligatorio, un centro privato di riabilitazione. Qui a Verona la lista di attese copre circa 18 mesi, riabilitazioni private a pagamento, e già si poneva il problema di come fare con il prossimo esercizio della delega fiscale che taglia dal 5 e del 20% le detrazioni. Qui devo dirti che l'esercizio non è automatico, è per il momento solo approvato e minacciato. Ma ora, continua la lettera, tolti 490 euro al mese, non ce la faremo di sicuro più. Da lunedì il bambino sospenderà le terapie. Di 6 alla settimana credo che riusciremo a pagarne di tasca nostra solo 2 o 3. Ecco, vi risparmio il resto dei commenti, e come questa tanti altri casi ogni giorno, o di imprese in difficoltà, o di artigiani che non sanno più come fare, o di sostegno alla famiglia che vengono meno. Non è per dare la colpa a nessuno, ma per capire che il quadro è questo del paese. Gli ospiti per parlare dei punti aperti dell'articolo 18. Abbiamo con noi Giuliano Cazzola, deputato PDL, vicepresidente della Commissione Lavoro. Grazie e buongiorno. Buongiorno. Stefano Fassina, componente della Segreteria Nazionale, responsabile economia e lavoro del PD. Buongiorno. Buongiorno. Comincerei con Fassina perché dal punto di vista politico, così come la CGIL è stata in prima fila nel fronte sindacale che si è aperto alle obiezioni al testo della Fornero, politicamente il PD, e nel PD fin dal primo momento dirigenti come Fassina, ricordo eravamo in televisione quando ancora non si aveva il testo definitivo del martedì della settimana scorsa, sono stati in prima fila nel dire con una certa risolutezza sì, sostegno al governo Monti, per carità, ma su questo non ci siamo proprio e bisognerà cambiare molto da quello che capiamo. Col testo è diventato sempre più determinato e preciso. Prima di entrare nel merito, Fassina, può dirci qual è, in termini generali, secondo lei, ciò che non funziona, ciò che il ministro Fornero ha sbagliato, ciò che poi ha costretto al momento il governo ad assumere lo strumento del disegno di legge, proprio prendendo atto del fatto che evidentemente la forbice e la risolutezza delle modifiche richieste è questa volta molto elevata e determinata? Ma il primo punto è politico generale. Il governo si è trovato di fronte tutti i sindacati disponibili a una modifica sull'articolo 18 per introdurre il modello tedesco, che è un modello che prevede per tutti i casi di licenziamento illegittimo la possibilità per il giudice di decidere il reintegro oltre che l'indennizzo, che sto dicendo la possibilità, non l'automaticità come oggi previsto dalla legislazione italiana. Di fronte a questo atto di responsabilità il governo non ha manifestato adeguata responsabilità e ha scelto di andare avanti comunque, e questo a nostro avviso è un errore politico, perché in questo momento di fronte a sindacati così responsabili che hanno affrontato così responsabilmente l'intervento pesantissimo sulle pensioni di dicembre, in una situazione così difficile per l'economia, per i lavoratori e per le imprese italiane, avremmo avuto bisogno di un governo capace di valorizzare la coesione sociale. E quindi questo è il criterio politico. Secondo Cazzola, la decisione del governo è di dire confronto sì, ma data certa e veti a nessuno e noi procediamo, e che questa volta però sembra rimbalzare contro un muro. Aver adottato questa linea, che Fassina stigmatizza, non rischia di rivelarsi un indebolimento invece che un rafforzamento del governo? Lei che pensa, Cazzola? Ma guardi, io penso che questa riforma non vada bene. Ce lo dico con molta franchezza, probabilmente non per le cose che dice Fassina, ma anche a fronte di un pasticcio, di una cosa abbastanza modesta per quanto riguarda la revisione dell'articolo 18, ci sarebbe da vedere delle parecchie contraddizioni nelle cose che il governo ha fatto. Secondo me c'è uno squilibrio fra appunto minore rigidità in uscita e modifica, ecco, della flessibilità in entrata, che è assolutamente inaccettabile. Io sono convinto che noi perderemo posti di lavoro per le norme che sono state introdotte al ridimensionamento della cosiddetta flessibilità in entrata. Ci sono delle cose, io l'ho analizzate con precisione, che proprio non hanno senso, sono ed è strano che un governo di intellettuale l'abbia fatto, sono diciamo la copiatura, l'assunzione acritica di tutte le polemiche che in questi anni si sono fatti sul precariato, sulla precarietà, con effetti che secondo me saranno devastanti. Guardi, oggi un quotidiano esce dicendo che le partite IVA fasulle sono 400.000, no? Allora, questa legge, questo documento sulle partite IVA, per esempio, mette in difficoltà quelle vere, perché presumere che chi guadagna il 75% del proprio reddito da un solo committente per un contratto che dura più di 6 mesi, no? Se si avvale del computer o di una stanzina che gli mette a disposizione dell'azienda, in buona sostanza non fare distinzione e finire per colpire anche un consulente vero che abbia un buon cliente. Ma le sembra lei che in base ad una norma di legge 400.000 persone, se è vero che sono 400.000 persone le partite IVA finte, dalla sera alla mattina si trasformano in lavoro dipendente a tempo indeterminato, associato in partecipazione, no? Si muovono in un quadro diciamo di giuridico, in una giurisprudenza consolidata, hanno una regolamentazione fiscale, pare che anche questi siano 500.000. D'ora in poi l'associazione di partecipazione è proibita, si può fare solo tra familiari. Le sembra possibile che anche qui dalla sera alla mattina questi diventano tutti lavoratori dipendenti? Ci sono prenda per esempio sempre il caso delle partite IVA, c'è proprio una visione operaista, c'è proprio una visione del co-co-co delle partite IVA, per esempio gli iscritti alla gestione separata sono anche professionisti non ordinistici, no? Questi hanno la loro aliquota viene portata al 33%, quando un ragioniere, mettiamo un consulente finanziario per esempio, no? Un ragioniere che è iscritto all'ordine dei ragionieri, un dottore commercialista, paga la sua cassa il 15%. Ci sono delle cose che non stanno in piedi, e vede, io questa danza macabra che anche il mio partito fa, no? A difendere questo provvedimento così com'è. Secondo me siamo arrivati a un punto in cui la politica non tiene proprio più conto delle esigenze della gente. Allora, la fermo su questo perché lei ha introdotto critiche di merito profonde sulla giro di vite che viene messo nei canali di ingresso diversi dal contratto di assunzione a tempo indeterminato nei provvedimenti del governo, che sono numerosi e sono forti, perché la durata massima dei periodi in successione delle diverse forme del tempo determinato è stabilita in 36 mesi, comprensivi di proroga, quindi non ci sono più deroghe. Tra un contratto e l'altro va rispettato un intervallo di 60 o 90 giorni se la sessione temporale è inferiore o superiore ai 6 mesi. Le proroghe di durata sono eccezionali per 30 o 50 giorni, ma solo per i periodi inferiori ai 6 mesi, e poi aumentano i contributi aumentano dell'1,4% a esclusione dei motivi sostitutivi e per le attività stagionali. Questo per il tempo determinato. Per le false partite IVA sostanzialmente l'ha detto Cazzola, la presunzione della finta copertura di un rapporto di lavoro subordinato è quello di ricavi più del 75% dei corrispettivi. Per la collaborazione a progetto, anche qui cresce l'aliquota contributiva, perché dal 2013 gli iscritti alla gestione separata, che non abbiano altra copertura, devono pagare il 28% in caso di collaborazione a progetto, mentre i pensionati e gli iscritti ad altra gestione scontano invece il 19%. Sul tempo parziale c'è l'obbligo di comunicare le variazioni di orario, una comunicazione amministrativa, si può fare con l'SMS, il fax, la posta elettronica certificata. Insomma, ci sono, dal punto di vista degli aggravi contributivi e degli adempimenti formali, dei controlli ex post su presunzioni ex ante, molte variazioni che derivano dalla finalità dichiarata della lotta alla precarietà e di considerare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come il contratto di convergenza di modello sociale, per così dire. Da questo punto di vista, rispetto alle obiezioni di chi dice troppo questo giro di vita e l'effetto rischia di essere in recessione una diminuzione della propensione delle imprese ad occupare, Fassina e il PD che cosa dicono? Ma i punti che sollevava l'onorevole Cazzola sono punti veri. Noi non avremmo proceduto in questo modo, perché non c'è dubbio che ci sono i lavoratori da tutelare, non c'è dubbio che c'è stato un abuso delle partite IVA, ci sono tante partite IVA false, non c'è dubbio che l'associazione in partecipazione è stata abusata, ma non c'è neanche dubbio che noi non possiamo da un giorno all'altro, nella situazione in cui ci troviamo, aumentare i costi del lavoro per l'impresa. Noi avremmo preferito, rispetto ai vantaggi che oggi hanno i contratti precari, avremmo preferito ridurli, eliminarli attraverso una riduzione degli oneri sociali sul costo del lavoro a tempo indeterminato, perché così complessivamente l'impresa non ha un aggravio contributivo. Noi non siamo d'accordo a questo aumento così forte dei contributi sociali per i collaboratori e per le partite IVA che non hanno altra gestione pensionistica, tenendo conto anche del fatto che per loro non c'è nessuna estensione degli ammortizzatori sociali, quindi questa categoria rischia di essere penalizzata senza avere alcun vantaggio. È un punto sul quale in Parlamento intendiamo tornare, perché c'è un po' un'illusione, come dire, giuslavorista, per cui attraverso norme rigide si sconfigge la precarietà. Le norme servono, ma devono tener conto della realtà e devono tener conto dell'equilibrio complessivo. Bisogna fare in modo che l'intervento non comporti complessivamente per l'impresa un aumento di costo, altrimenti avviene quello che è avvenuto in questi anni. Ok, cioè la fermo, perché andiamo in pubblicità con questa, però prima sorpresa di cui io personalmente sono molto soddisfatto. Io la penso esattamente come ha appena detto Fassina e come prima hanno detto Cazzola. Se in Parlamento, intanto, nella parte che riguarda il giro di vita in entrata, fosse possibile una convergenza di maggioranza tra PD e PDL, il terzo polo che stamattina non c'è con noi, sulla linea per la quale è giusto fare la lotta alla precarietà, ma diminuendo i contributi sul tempo indeterminato, che secondo me è la cosa fondamentale che manca nell'impostazione di questo governo per aumentare davvero nel delta temporale più ristretto l'incentivo, per dare l'incentivo alle imprese per aumentare l'occupazione, abbattere i contributi alla presenza dello Stato in termini ordinari a fronte di riduzione di spesa. Ma se fosse possibile realizzare una convergenza di questo tipo rispetto al giro di vita troppo forte, un po' demagogico e che rischia di fare meno occupati, come secondo me ha giustissimamente appena detto Fassina, beh, PD e PDL renderebbero la scelta del disegno di legge invece che del decreto legge una ottima occasione per fare meglio rispetto a questo punto che, se sono d'accordo con quello che avete sentito, è molto deficitario e un po' troppo demagogico nell'impostazione del ministro Fornero. Eccoci tornati qua in studio. Abbiamo cominciato esaminando il giro di vite e in entrata, critiche, non dico uguali, ma insomma di convergenza che potrebbero essere interessanti in Parlamento, dalla voce prima dell'onorevole Geno Cazzola e del responsabile economico del PD Stefano Fassina. Naturalmente adesso andiamo agli altri punti del provvedimento. C'è naturalmente la flessibilità in uscita, quindi l'articolo 18, e c'è un punto che a me sta anche molto a cuore, perché devo dirvi la verità, con tutto il rispetto che ho sicuramente per le convenzioni e le tradizioni di appartenenza di ciascuno, sul punto di fondo, cioè se per licenziamenti economici, di fronte all'impugnativa, di fronte al giudice che resta, e al fatto che spetti al lavoratore a quel punto l'onere di dimostrare che nella pretesa economica dell'azienda non ci sia, e che a quel punto la sanzione sia solo l'indennizzo e non la reintegra, che c'è invece nel caso dei licenziamenti disciplinari, capisco tutto, capisco l'importanza che ciascuno dei due fronti annette a questo, ma la mia devo dire, preoccupazione prioritaria, è invece sul fatto che sul terzo pilastro, chiamiamolo così, della riforma, quello che riforma l'attuale sistema di continuità, cassa ordinaria, straordinaria in deroga, fino a mobilità, quindi anni, e invece distingue il tempo più breve di ristrutturazione delle imprese dall'ASPI, cioè da uno strumento di sostegno al reddito di chi perde il lavoro, preteso universale, ma mettendoci solo 1.2 miliardi, io sono certo che quell'1.2 miliardi, oltre all'aumento dei contributi, che come abbiamo visto viene introdotto nella riforma di 1,4 punti, io sono convinto che l'ASPI non sarà universale. Quindi mi preoccupo molto per i disoccupati oltre i 40 e i 50 anni e mi preoccupo molto per chi ha un profilo di lavoro spezzettato che non rientrerà né nei 52 settimane in due anni, che è il requisito, diciamo così, standard per avere diritto all'indennità di disoccupazione, né in quella, la mini indennità di disoccupazione, che riduce la pretesa e abbatte anche l'assegno. Io sono convinto che qui c'è un buco, che è la falla vera di questo provvedimento, perché non dà uno strumento di sostegno universale alla disoccupazione, perché non ci mette risorse neanche lontanamente simili a quelle, secondo me, per i miei conti, appropriate. Può essere che sbaglio io, ma io credo di stare di una 10-12 miliardi di distanza rispetto agli 1.2 che ci mette il governo, perché quello strumento sia davvero universale. Si è aggiunto tra noi Luigi Angeletti, gli chiedo se di farci un punto generale su cosa attendersi a questo punto, secondo lei, di modifica dal provvedimento, partendo dal giro di vita in entrata, su cui prima Fassina e Cazzola sono detti abbastanza d'accordo, ed estendendosi anche però ai due punti, articolo 18, e su questa che almeno in me è la preoccupazione fondamentale dello strumento di sostegno al reddito, che mi pare poco finanziato e molto sventolato. Angeletti, che dici? Allora, partiamo dalla cosa più importante, che è il sostegno al reddito alle persone che dovessero sciaguratamente perdere il lavoro in età più avanzata. Questo è il punto più, secondo me, più importante e anche più problematico, perché la sequenza attuale, non essendo più ripetuta, cioè cassa integrazione mobilità, prepensionamento, certo, creerà dei seri problemi. Non a caso abbiamo visto di creare un fondo che è largamente però finanziato dalle imprese, quindi in questo non sarà universale, perché non tutte le imprese avranno le risorse per gestirlo, che appunto sostituisca questo percorso e che si aggiunga alla indennità di disoccupazione, così come è prevista la normativa. Questo è il vero punto fondamentale. Si può risolvere solo mettendo altri soldi pubblici e tagliandoli da qualche altra parte. Io penso che Angeletti non è che dia ragione a me, io penso che questa sia la cosa più rilevante aperta, e lo dico, ripeto, con tutto rispetto per l'articolo 18. Fassina, che dice? Beh, sono d'accordo, è un punto che non può rimanere così, perché noi abbiamo cancellato le pensioni d'anzianità, abbiamo portato l'età di pensionamento a 67 anni, ma è inevitabile che ci saranno decine e decine di migliaia di lavoratori e soprattutto lavoratrici sessantenni che verranno espulsi dai processi produttivi, e certamente finito l'ASPI, che dura 18 mesi, rimane un buco di 3, 4, 5 anni. Ora, è vero che è previsto un fondo di solidarietà a carico delle imprese, ma sono oneri ingenti che in qualche modo devono essere supportati anche dalla fiscalità generale. Noi abbiamo criticato l'intervento sulla riforma delle pensioni su questo punto, perché un intervento che dà 20 miliardi all'anno di risparmio a regime avrebbe potuto contribuire con una percentuale anche modesta ad alimentare invece risorse per la fiscalità generale, perché altrimenti ci troviamo in una situazione assurda che non c'è nessun altro paese europeo. Nessun altro paese europeo lascia scoperta questa fascia di lavoratori. Su questo sono assolutamente d'accordo, bisogna trovare una soluzione. E qui siamo alle solite. Lo Stato prende tutti gli effetti delle misure aggiuntive di correzione esclusivamente a miglioramento dei suoi saldi. Non accetta la finalizzazione a sostegno di settori scoperti rispetto ai quali siamo potentemente, pesantemente o anche solo leggermente sottomedia rispetto agli altri paesi europei in nome dell'emergenza. Però così lo Stato fotte tutti, se scusate il termine un po' brutale. Che dice Cazzola su questo punto? Allora, innanzitutto bisogna ricordare che le persone che sono derogate dall'applicazione dei nuovi criteri della riforma Fornero delle pensioni sono 350.000, sono stimati in 357.000. Esiste un finanziamento per 65.000, va trovato quindi il finanziamento di qui a giugno anche per gli altri, e la legge prevede che se non, le risorse non bastano, e le risorse non bastano come ha messo lo stesso Ministro del Lavoro, occorre aumentare la contribuzione sociale a partire dalla disoccupazione. Quindi in buona sostanza abbiamo gli ammortizzatori sociali che andranno in soccorso delle pensioni. Faccio altresì notare che il finanziamento dell'ASPI si basa sull'aumento della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata, i COCOCO, i quali non ricevono una prestazione universalistica, come lei diceva, dottor Giannino, in quanto il documento prevede che a loro rimanga l'una tantum che aveva stabilito Sacconi, la quale una tantum, a fronte di uno stanziamento di 200 milioni, ne sono rimasti in cassa 176, perché pare che non funzioni, pare che abbia dei criteri che non riesce a funzionare. Articolo 18, io faccio due casi, il caso di un lavoratore che viene licenziato per motivi disciplinari, a parte il fatto che la correzione dei motivi disciplinari è alla tedesca molto, molto, molto, molto poco, perché è molto all'italiana, in quanto si stabilisce dove il giudice deve dare la reintegra e dove può dare l'indennizzo. Ma un lavoratore, Mario Rossi, viene licenziato per motivi disciplinari, un altro lavoratore, Gino Cervi, viene licenziato per motivi economici. Il primo trova un giudice che dice: tu hai commesso delle mancanze, però non sono così gravi da giustificare il licenziamento, quindi io ti reintegro, anche se hai sbagliato. L'altro dimostra invece che il posto di lavoro non doveva essere tagliato. Il giudice dice: bene, tu hai ragione, ti do un indennizzo. Quindi il primo che ha commesso delle mancanze torna a lavorare, il secondo esce con un indennizzo assurdo, perché 27 mensilità sono un indennizzo assurdo, perché insomma io credo che quindi lei dice parliamo quello degli economici al diritto di reintegra alla reintegra che il giudice può disporre per i disciplinari. Aspetti un secondo, fermiamoci qua. Fassina, se questa fosse la proposta, quella che dice Cazzola fosse la proposta del PDL, che direste voi? Ma se Cazzola intende dire che va disposto il reintegro, la possibilità di reintegro anche per i licenziamenti economici, saremmo d'accordo, perché il caso che proponeva Cazzola in realtà non si darà, perché nessun imprenditore rischierà, nonostante ci possano essere motivi disciplinari, rischierà il reintegro adducendo i motivi disciplinari per licenziamento. Tutti gli imprenditori, anche in presenza di motivi disciplinari, andranno sull'economico. Sceglieranno il motivo economico, se gli va male comunque si liberano del lavoratore pagando l'indennizzo, quindi questa asimmetria è una simmetria che crea, diciamo, poi una di fatto inutilizzazione degli altri canali e scarica tutto su quello economico, e questa è la ragione per cui non funziona. Angeletti che dice? Le modifiche che vi attendete come Will dal Parlamento sul punto in uscita, quindi articolo 18, quali sono? Sono quello di rendere certo e prima del giudizio del solo giudice un sistema che sia facendo intervenire il sindacato, sia facendo intervenire l'autorità pubblica come gli uffici provinciali del lavoro, quindi le procedure di conciliazione, che certifichi se quel licenziamento ha ragioni oggettive, cioè economiche o meno, e quindi farlo saltare prima del processo, altrimenti ricipiteremo nell'area in cui avviene adesso, per cui il 94% dei licenziamenti si tramuta in indennità, perché questa è purtroppo la realtà. Certo, no, non è una realtà di là da venire con questa riforma, ma precedente. Ecco, un secondo solo, mettiamo i Dorsi in chiusura. Ma faccio notare che anche nell'intervista al Corriere di oggi rilasciata dal segretario CISL Bonanni trovate echi convergenti rispetto alla tesi illustrata da Fassina, da Cazzola e in buona sostanza da Angeletti, ma ad Angeletti col rafforzamento della conciliazione del ruolo sindacale. L'anomalia della reintegra per disciplinare e non per gli economici sta diventando, è di fatto già la convergenza. Io credo che su questo il governo abbia fatto male i conti. Casini, il Ferdinando Casini, che nel fine settimana ieri ha detto avanti così il governo va in crisi perché si apre troppo la forbice, e penso che dovrà fare marcia indietro, perché io penso che nel merito di questo provvedimento le obiezioni troveranno convergenza in Parlamento. Poi non so, PDL può essere invece che lo difenda a spada tratta, veda un po' lui, in nome della coerenza di quel popò, di cose che non ha fatto prima. Ma i punti di fondo di cui stiamo parlando oggi prescindono da questioni di schieramento. Ce n'è un altro su cui vorrei rapidamente fare l'ultimo giro di opinioni. Un altro punto debole, secondo me, del provvedimento è quello sull'efficacia di un servizio capace poi di matchare, di confrontare davvero domanda e offerta di lavoro di fronte poi ai disoccupati che hanno un orizzonte di ASPI che è giustamente ridotto, ma però è ridotto, e a quel punto se non c'è un sistema capace di incrociare domanda e offerta, poi cosa fanno dopo alla fine? I tedeschi hanno rivoluzionato il loro sistema. Da noi le agenzie pubbliche del lavoro intermediano una quota bassissima di nuova occupazione, tra il 3 e il 4%. Fassina, che dice su questo? Assolutamente ragione lei, è il punto che volevo sollevare, quello delle politiche attive per il lavoro, che non è un punto marginale ma dovrebbe essere il cuore del provvedimento, perché poi giustamente ci preoccupiamo del reddito di chi è disoccupato, ma la preoccupazione principale è quello che rientri al lavoro. Su questo è preoccupante che il pacchetto del governo rinvii al 30 giugno previa passaggio con la conferenza delle regioni che come noto hanno competenze in materia di politiche attive del lavoro insieme alle province. Bisogna vederci chiaro, perché l'impalcatura si potrebbe reggere qualora ci fosse un servizio efficace che oggi è assolutamente mancante. Dobbiamo capire come si riforma la formazione, come chi entra in campo per appunto far incontrare domanda e offerta di lavoro, che sostegni si danno al lavoratore e all'azienda per rioccupare figure deboli come sarebbero i sessantenni che perdono il lavoro. Su tutto questo c'è un grande vuoto. Io faccio fatica a capire come il Parlamento possa discutere del resto, lasciando questo nell'angolo, sono abbastanza d'accordo. Mi sembra francamente complicato, vorrei un testo che anche su questo dica qualcosa. Angeletti, che dice su questo? Angeletti? Sono assolutamente d'accordo con Fassina, questo era il cuore dell'idea che il governo aveva sulla riforma del mercato del lavoro: meno sussidi, meno assistenza e più occasioni di lavoro. Purtroppo però dobbiamo tener conto di una cosa, che probabilmente anche la migliore riforma su questo tema varrà per metà dell'Italia, perché nel sud manca l'oggetto del problema, il lavoro. Fa bene Angeletti a richiamarci a questa cosa, manca il lavoro e mancano sempre più anche i fondamentali del mercato, visto quello che leggiamo, ed è un loop, una spirale negativa che purtroppo continua nella crisi a diventare sempre più grave e a separarle le due parti del paese. Ora io non ho tempo per finire il giro con Giuliano Cazzola anche su questo, dopo scontato che probabilmente ci direbbe che è così. Come vedete, di punti aperti ce ne sono veri e seri nella riforma, seri e veri. Non potete pensare che io sia diventato improvvisamente il sostenitore di concessioni a prescindere. Mettere mano alla riforma del mercato del lavoro dopo decenni di stop, bisogna ragionarci sopra. Io credo che su questo il governo abbia commesso degli errori, devo dire la verità, e anche credere che tutto sia nel licenziamenti economici col puro indennizzo. Chi pensa che quella sia la svolta per far vedere al mondo che siamo cambiati è una sciocchezza di schieramenti. E posso anche dirvi che c'è un ultimo punto sul quale non ho voluto su questo chiedere ai nostri interlocutori, che gli stati non siano riguardati, questo a tutti quei lavoratori dipendenti privati, questa roba non la buttano giù e non le capiscono ragione. Io sono con loro. Grazie a Cazzola, grazie a Fassina, grazie a Angeletti. Ragionare si può, come vedete. Appuntamento a domani.